scusate, ma non posso non dire la commozione che noi oggi proviamo, venendo dalla Valle di Susa, a trovare davvero delle sorelle, dei fratelli, dei compagni di lotta. Stamattina lo dicevamo, al di là della famiglia di sangue c'è la famiglia di lotta, ed è proprio questo spirito che oggi respiriamo qui con voi. E non ci sentiamo soli, e capiamo anche perché stiamo vincendo tutti quanti insieme, nonostante la repressione, nonostante il fatto che ritroviamo qui in tanti momenti la stessa repressione che troviamo nelle nostre parti. Troviamo qui anche però quella socialità profonda di cui parlava anche Valerio Evangelisti. E perché è vero questo, no? Questo senso di fraternità è quello che ci permette, pur essendo anche donne anziane, ragazzi giovani, ci permette di stare tutti insieme e di non aver più paura anche davanti ai manganelli. Non è facile vederli arrivare da lontano, quando tu stai fermo, e stai fermo non perché non hai paura, ma perché sai che se te ne andrai, altri resteranno soli. E quindi è questa socialità che abbiamo cercato di trasmettere nei nostri presidi, che sono nati come momento di lotta e sono diventati un momento importante di socialità. E ci ritroviamo in questa visione anche del movimento operaio, che nella sua origine era esattamente questo. Era un'unione di fratelli che si aiutavano reciprocamente, che non si abbandonavano, che si mettevano forte insieme e che per questo diventavano invincibili. Per cui lasciate che vi ringrazi davvero tutti quanti che ha organizzato, chi ci ha ospitati e voi che ci siete stati, perché ce ne andiamo col cuore pieno di gioia, quella gioia che è indispensabile perché la lotta sia vera, perché la cultura sia vera, una rivoluzione culturale ma anche una rivoluzione umana, un'apertura verso un futuro che deve essere esattamente questa cosa qui, deve avere i vostri volti, deve avere questa voglia di vivere insieme e di cambiarlo davvero, questo mondo e questa società. Grazie.